Quinto discorso, il discorso del Monte della Misericordia. Questo discorso fu fatto dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nel giorno di Arafa, durante il suo pellegrinaggio, passato alla storia con il nome di pellegrinaggio dell'addio nell'anno decimo dell'Egira. Può essere chiamato il suo testamento spirituale, poiché circa 3 mesi dopo il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, moriva a Medina. Discorso del Monte della Misericordia. Ogni lode appartiene soltanto ad Allah, e noi lo lodiamo e invochiamo il suo perdono. A lui ritorniamo e in lui ci rifugiamo contro il male che è dentro di noi e contro le malefiche conseguenze delle nostre azioni. Colui che Allah guida, nessuno mai lo potrà fuorviare, mentre colui che Allah fuorvia, nessuno mai potrà rimetterlo sulla retta via. Attesto che non c'è divinità tranne Allah, l'unico, il quale condomini non ha nella sua qualità divina. A lui appartiene il regno e a lui è dovuta la lode. Egli è il datore della vita e il datore della morte. Il suo potere si estende su ogni cosa. Non c'è divinità tranne Allah, l'unico. Egli ha mantenuto la sua promessa, accordando al suo servo la vittoria. Da solo egli ha sconfitto gli alleati che si erano coalizzati per annientare l'Islam. O popolo, ascoltate le mie parole e fatene tesoro, poiché io non so se mi sarà concesso di potervi incontrare in questo luogo e di eseguire il pellegrinaggio dopo quest'anno. O popolo, Allah dice: o uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina, dividendovi in popoli e tribù, sicché possiate conoscervi gli uni gli altri. In verità, agli occhi di Allah, il migliore di voi è colui che tra voi maggiormente lo teme. Un arabo non è superiore a un persiano, né un bianco a un nero, tranne che in timore di Allah. Tutto il genere umano discende da Adamo, e Adamo fu creato dalla polvere. Ogni pratica dei giorni dell'ignoranza è oggi sotto i miei piedi. Tutti gli interessi e le usure del tempo dell'ignoranza sono aboliti. O popolo, il sangue, la proprietà e l'onore sono beni inviolabili fino al giorno in cui comparirete davanti al vostro Signore, come inviolabili sono questi giorni, questo mese, questa città. In verità, tra non molto, ciascuno di voi dovrà presentarsi al suo Signore, a cui dovrà rispondere delle sue azioni. Popolo, quelli di voi che sono coniugati hanno dei diritti nei confronti delle loro mogli, e le mogli, a loro volta, hanno diritti nei confronti dei loro mariti. È dovere dei mariti rispettare i diritti coniugali delle mogli, ed è loro diritto che le mogli si comportino onestamente. Se esse si comportano disonestamente, Allah vi autorizza a non adempiere il debito coniugale, allontanandole dai vostri letti e castigarle, ma non severamente. Se si ravvedono, è vostro dovere provvedere a vestirle, nutrirle, mantenendole come si conviene. Non è concesso alla moglie di dare a terzi una cosa di proprietà del marito senza il consenso di lui. Trattate le donne con gentilezza, poiché esse sono le vostre compagne e sono il gentil sesso. Siate testimoni di Allah per quanto concerne le donne, poiché è Allah che ve le ha affidate e dalla parola di Allah deriva il vostro diritto di unirvi con loro. O popolo, l'Onnipotente ha ordinato che tutti hanno diritto di succedere, per cui non c'è necessità di testamento. I figli appartengono al letto coniugale e chi lo viola deve essere lapidato. Per quanto riguarda il suo destino nella vita futura, farà i conti con Allah. Allah maledice colui che attribuisce la paternità di se stesso ad altri che suo padre. Tutti i debiti devono essere pagati, ogni prestito va restituito, ogni dono va ricambiato e ogni garanzia deve essere onorata. La responsabilità penale è personale. Il padre non è responsabile del crimine del figlio e il figlio non è responsabile del crimine del padre. Nessuna cosa appartenente a un fratello è lecita per un musulmano, ad eccezione di quella che gli viene data volontariamente. Perciò non fatevi torti a vicenda. O popolo, ogni musulmano è fratello di ogni altro musulmano e tutti i musulmani costituiscono una fratellanza. Per quanto riguarda i vostri dipendenti o padroni, siate solleciti a nutrirli con ciò di cui voi stessi vi nutrite, a vestirli con gli abiti con cui vi vestite voi stessi e state attenti a non andare alla rovina dopo di me litigando tra voi e facendovi violenza gli uni e gli altri. Colui che ha ricevuto un deposito deve restituirlo al proprietario. O popolo, ascoltate e obbedite, anche se su di voi è stata concessa l'autorità islamica a uno schiavo abissino storpio, fino a quando egli segue i dettami del libro di Allah. O popolo, nessun profeta verrà suscitato dopo di me e nessuna comunità religiosa si formerà dopo di voi. In verità, io vi lascio qualcosa che, se ad essa vi atterrete, vi impedirà d'andare in perdizione, il libro di Allah. Se a esso vi atterrete, non andrete in perdizione mai. Perciò guardatevi dall'oltrepassare i limiti che esso ha posto, poiché la trasgressione dei limiti posti da Allah ha portato alla rovina coloro che vi hanno preceduto. Satana ha ormai perduto ogni speranza di essere adorato in questa terra, però non si darà per vinto e cercherà di sedurvi in cose minori dell'adorazione. Perciò state attenti a non lasciarvi sedurre da lui in qualcuno degli aspetti minori della religione. Adorate Allah, il Signor vostro, eseguite le 5 preghiere quotidiane, osservate il digiuno nel mese di Ramadan, pagate prontamente l'imposta coranica, eseguite il pellegrinaggio alla casa di Allah, obbedite a chi tra voi ha il comando e così facendo entrerete nel paradiso del vostro Signore. Che coloro che sono presenti portino questo messaggio a chi è assente. Può darsi che molti di coloro a cui il messaggio sarà portato lo capiscono meglio di coloro che l'hanno udito con le loro orecchie. Quando vi chiederanno di me, cosa direte? All'unisono i presenti risposero: noi renderemo testimonianza che tu ci hai portato il messaggio che ti era stato affidato, hai adempiuto la tua missione e ci hai consigliato per il nostro bene. Allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, alzò verso il cielo la sua mano chiusa con l'indice teso e poi, rivolgendosi verso i presenti, disse: o Allah, rendi testimonianza. O Allah, rendi testimonianza. Faccio notare, come oggetto di riflessione, l'ultima frase del discorso dell'addio. Disse: coloro che sono presenti portino questo messaggio a chi è assente. Può darsi che molti di coloro a cui il messaggio sarà portato lo capiscano meglio di coloro che l'hanno udito con le loro orecchie. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.